4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buonasera, bentornati amici dei motori, buon anno anche da parte nostra, prima puntata del 2009, 4 ruote dintorni, non cambia, rimane il focus sui motori di Radio 24 in collaborazione ormai da 9 anni con il mensile 4 ruote, i loro esperti, tra cui per esempio Marco Ghezzi che è già al telefono. Caro Marco, buonasera, bentornato. Buonasera a tutti. Con Marco andremo a provare un nome storico, insomma torna la Campagnola, stavolta targata Iveco, e ne sentiremo delle belle, pregi e difetti di questa off-road. Poi parleremo di radar anticollisione. Italiana è l'unica azienda in Europa che ha prodotto un radar anticollisione aftermarket che serve soprattutto ai trasporti, e poi cinema in sicurezza, un'altra manifestazione che ci racconterà la collega Laura Confalonieri. Allora, caro Marco, dicevamo Campagnola, Iveco, vuoi fare tu una bella presentazione di questa che è un nome storico per molti italiani? Sì, è un nome storico, torna dopo tanti anni, torna col marchio Iveco. È una fuoristrada dura e pura, cioè una di quelle senza tanti compromessi, che non ha niente a che vedere con le moderne sport utility. È una fuoristrada per gli specialisti, per quelli che vogliono andare a fare il fuoristrada davvero, e anche per chi lo usa per motivi di servizio, l'esercito piuttosto che associazioni, il volontariato. È un'auto diversa da quelle che troviamo normalmente sulle strade cittadine, però monta un motore Fiat di buone caratteristiche, un 3 litri turbo diesel, ma ha una struttura che è una struttura davvero specialista, quindi ancora con le balestre, col telaio Longheroni, una struttura sostanzialmente robusta per affrontare i percorsi più impegnativi. Decisamente. Allora conosciamola meglio questa nuova Campagnola per filo e per segno, iniziando dalla scheda che il nostro speaker ha spiegherato per voi. Torna la storica fuoristrada italiana, ma non è più quella di un tempo. Ora porta il marchio Iveco ed è costruita in Spagna. Non si tratta di una sport utility. In città, in mezzo al traffico e sull'asfalto in generale, non si trova proprio a suo agio. Il suo habitat naturale sono gli sterrati e tutti quei percorsi off-road che ben si adattano alle sue qualità di 4x4 dura e pura. Disponibile soltanto nella versione a 3 porte, può ospitare al massimo 4 passeggeri. Nome: Iveco Campagnola. Carrozzeria: 3 porte a 4 posti. Dimensioni: lunghezza 4 metri e 24 centimetri, larghezza 1 metro e 75, altezza 2,5. Motore: anteriore longitudinale, 4 cilindri diesel, potenza 177 cavalli, trasmissione, trazione posteriore, anteriore inseribile, cambio manuale a 6 rapporti, prezzo 36.745 euro. Ecco, queste sono le caratteristiche base della Campagnola. Marco, ti racconto questo, che i nostri ascoltatori sanno. Siamo stati personalmente all'Iveco circa un mese fa durante l'allestimento di alcuni modelli della Campagnola e non solo, che oggi fanno parte di una missione che si chiama Oltre. Forse anche tu l'hai sentita nominare. Il gruppo Sole 24 Ore appoggia questa missione. In questo momento i mezzi stanno percorrendo alcuni di quei 14.000 chilometri che li portano fino allo stretto di Bering. Io ho misurato una certa soddisfazione, un certo orgoglio, al di là della missione, dico, per questa Campagnola in casa Iveco. Tu che cosa ne dici? Beh, dal punto di vista dell'utilizzo fuoristradistico vero e proprio, è un'auto che va bene, che sì, è adatta al, diciamo, come è stata costruita. Risulta senz'altro un'auto che funziona su questo tipo di terreno. Diverso il discorso se la vogliamo impiegare su strada come una sport utility, perché chiaramente non è il suo terreno, quindi in fuoristrada, nel fango, sullo sconnesso, dove c'è da tirare fuori delle caratteristiche fuoristradistiche, è un'auto di grandi, sì, prestazioni. Su strada lamenta tutti i limiti delle fuoristrada vecchia maniera, col baricentro alto, lo sterzo non particolarmente preciso e diretto, ed è anche un pochettino rigida e quindi anche non particolarmente silenziosa e confortevole, però comodo, sono, certo, sono caratteristiche che si possono accettare. Lo dichiara però, no? Fin dall'inizio questa dichiara di essere un off-road nuda e cruda, invece in un'era in cui ormai gli sport utility utility vehicle sono più auto borghesi che insomma fuoristrada. Basta vedere quello che succede su alcuni pendii in questi giorni innevati delle nostre strade, dove se anche gli sport utility vehicle, nonostante i 4x4, non hanno gli pneumatici da neve, non si muovono tanto quanto le coupé o le berline. Senti, come l'avete trovata dal punto di vista allora dinamico? Dicevamo dei suoi limiti sull'asfalto, invece dal punto di vista off-road avete fatto proprio delle prove tecniche? Dal punto di vista off-road abbiamo fatto le solite prove che effettuiamo sulla nostra pista off-road di Vairano, e lì effettivamente la vettura ha dimostrato qualità superiori a livello di un Land Rover Defender, senz'altro. Quindi grandi capacità sullo sconnesso, un motore che le dà tantissima coppia, che le consente di affrontare qualsiasi tipo di ostacolo, e questo probabilmente è il suo aspetto più apprezzabile, il suo pregio migliore. C'è un motore veramente superiore per coppia e per potenza, 175 cavalli di potenza. Qual è il target preciso di riferimento di questa Iveco Campagnola? Ma è lo specialista, senz'altro, e poi anche il professionista, il geometra che va in cantiere, piuttosto che alcune società pubbliche e private che fanno lavori in zone lontane e difficili da raggiungere. Potrebbero essere gli impiegati dell'Enel, piuttosto che i volontari del soccorso, piuttosto che le guardie forestali. Insomma, un'auto per queste soluzioni un po' particolari, per questi terreni e queste zone difficili da raggiungere. Molto bene, allora sentiamo la pagella che darà i voti a questa Iveco Campagnola. Posto guida. Lo spazio a disposizione è più che sufficiente, ma la disposizione del sedile è molto avanzata e l'assenza di regolazioni dell'inclinazione e dell'altezza del volante non permettono a tutti di trovare una posizione soddisfacente. 2,5 stelle. Motore. Il generoso 4 cilindri di 3 litri turbo diesel dispone di una buona potenza, 177 cavalli, e soprattutto di coppia in abbondanza. Unico limite, la ruvidezza e la rumorosità di funzionamento. 4 stelle. Comfort. La Campagnola è un veicolo scomodo per costituzione. Sospensioni rigide, pedale della frizione pesante, ben 19 kg, e rumorosità diffusa imputabile al rotolamento dei pneumatici, alla trasmissione e all'aerodinamica. 1,5 stelle. In fuoristrada. È stata progettata per le impervie strade militari di montagna, gli sterrati sconnessi e le fangaie di campagna. Può affrontare qualsiasi ostacolo con disinvoltura, sfruttando le ridotte e il bloccaggio del differenziale posteriore. 4,5 stelle. Senti Marco, ha senso su questa vettura parlare di consumi oppure non si calcolano neanche? No, ha senso senz'altro parlare di consumi. Si calcolano, non sono consumi diciamo bassissimi, ma diciamo una vettura che per quello che riguarda la sua caratteristica, l'uso che se ne deve fare, ha dei consumi ragionevoli, accettabili, che rispettano sostanzialmente quello che ci si aspetta da una vettura di questo tipo. Certo, per salutarti e ringraziarti volevo farti l'ultima domanda, allargando un pochino al mondo del fuoristrada. È più difficile o più facile di un tempo, riferendomi a 5-10 anni fa, quando iniziavano i problemi di permessi e divieti, trovare strade su cui sfogare una sana passione senza rovinare l'ambiente, senza inquinare troppo, senza rompere le scatole a chi magari su quei terreni lavora? Mi riferisco ad agricoltori, a contadini. Sì, è sempre più difficile perché le strade si riducono sempre di più, un po' perché vengono asfaltate, un po' perché vengono chiuse, anche perché non vengono più ripristinate. Le vecchie vie militari spesso non vengono più ripristinate quando c'è una frana, e quindi è sempre più difficile. Però bisogna dire che ci sono tanti volontari che poi si danno da fare e recuperano nuovi percorsi, e quindi si può ancora fare del fuoristrada, però ci vuole un attimino di conoscenza e un po' di abilità nell'andare a trovare le strade giuste. È sempre grande prudenza. Grazie Marco Ghezzi di Quattro Ruote, a presto, buon anno ancora e buon lavoro. Grazie a tutti. Allora, con la sua voce termina la prima parte della nostra trasmissione. Attenzione però che sta arrivando la seconda parte, si aprirà con il radar anticollisione. Vi ricordo, sul nostro sito radio24.it è monitorata minuto per minuto, mi viene da dire ora per ora, la missione Oltre che il gruppo Sole 24 Ore appoggia. Ci sono questi mezzi dedicati, fra cui le Campagnola Iveco di cui abbiamo parlato, ma che siamo andati a trovare, ve lo ricorderete, 4 settimane fa all'interno del nostro programma, che si stanno dirigendo lungo quei 14.000 chilometri, li porteranno fin sullo stretto di Bering, in quella linea di confine magica che non viene più battuta da nessuno oggi. E quindi particolarmente interessante questa spedizione dal nome Oltre. Trovate tutto su radio24.it. 4. Ruote e dintorni. Allora, come promesso, adesso ci occupiamo di sicurezza cercando tutti gli ambiti, anche quelli meno battuti relativi alla sicurezza. È italiana l'unica azienda in Europa, vi dicevo all'inizio, che si è occupata di progettare, costruire e poi anche immettere sul mercato aftermarket un radar anticollisione. Cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratti, proprio da chi l'ha inventato. Marco Morocutti è il direttore tecnico di AC Elettronica. Marco, intanto buonasera e benvenuto. Buonasera Roberto e buonasera agli ascoltatori. Senta Marco, qual è una definizione corretta di radar anticollisione? Perché apparentemente uno ci arriva, no? Radar da una parte evita le collisioni, ma per farci capire meglio, lei che cosa ci racconterebbe? Beh certo, in effetti è molto semplice, è un radar per l'appunto che è montato di fronte al nostro veicolo e guarda davanti come se fosse un fanale che scruta nella notte. È anticollisione perché proprio grazie al fatto che guarda davanti a noi è in grado di vedere fino a 150 metri e identificare gli altri veicoli che abbiamo davanti ma anche gli ostacoli fermi e darci un'indicazione in base a questo. Il radar fornisce quindi a noi che stiamo guidando il veicolo un'indicazione chiara e precisa con una scala graduata che va dal verde al giallo fino al rosso. Questa scala rappresenta il valore del pericolo. Pericolo verde vuol dire che non c'è pericolo, di fronte a noi abbiamo lo spazio per arrestarci. Sì. Quando siamo nel giallo o addirittura nel rosso, significa che siamo troppo vicini a chi ci precede, oppure che qualcuno improvvisamente ha frenato davanti a noi e quindi dobbiamo per forza fare una manovra. Ecco, questa scala cromatica a cui lei si riferisce, dove la si vede invece? Dentro l'abitacolo, evidentemente? Sì, perché dentro l'abitacolo viene installato un piccolo visualizzatore che nella versione più recente è un dispositivo dotato di schermo LCD e touchscreen, quindi un piccolo oggettino che potrebbe assomigliare in qualche modo ad un navigatore satellitare, se vogliamo, come aspetto. E su questo schermo si vede questa indicazione di pericolo, nonché altre indicazioni utili al conducente, come ad esempio la distanza in metri misurata in via assoluta dal veicolo che ci precede. Ecco, che tipo di tecnologia c'è dietro questo radar anticollisione? È proprio un radar, quindi utilizza un sistema a microonde come quello che è usato anche in altri ambiti, su autovetture per altre funzioni, e che opera alla notevolissima frequenza di 77 GHz, che vuol dire 5 volte più in alto delle frequenze usate per la trasmissione della TV via satellite, al di fuori quindi di ogni altro mezzo di comunicazione, e di conseguenza non è né soggetto a interferenze e né disturberà le comunicazioni del nostro telefono cellulare. Decisamente. Questo spazio, che è molto stretto, riesce a identificare gli oggetti fino a 150 metri davanti a noi. Ah, ecco, la portate fino a 150 metri. Senta, è universale, essendo aftermarket, ogni auto, ogni mezzo, mi riferisco anche a quelli commerciali di trasporto, ha il suo modello? È un sistema universale come concezione e si differenzia come montaggio, perché ci sono delle posizioni di montaggio più opportune sui veicoli commerciali come i camion, i pullman, i furgoni, e differenti nelle autovetture o nei camper o anche nei mezzi speciali come i camion dei vigili del fuoco ad esempio o le ambulanze, tutti i mezzi sui quali il sistema è stato montato con efficacia, individuando sempre la posizione opportuna e facendo in modo che possa svolgere la sua funzione correttamente. Senta, che cosa risponde a chi dice ma che bisogno c'è di un LED luminoso se io già guardo davanti, mi accorgo che un veicolo è troppo vicino? Beh, innanzitutto non è un LED ma è una scala progressiva che ci dà proprio il senso della progressione della nostra situazione di pericolo o di non pericolo. E il bisogno è molto sentito perché il sistema ha dei punti forti che sono quelli di vedere dove l'occhio umano non vede, ad esempio nell'oscurità. Quando viaggiamo di notte abbiamo sempre la percezione, l'indicazione se il veicolo davanti a noi rallenta all'improvviso o è troppo vicino a noi. Questo può aiutare in caso di distrazioni o di colpi di sonno. Ma soprattutto il sistema è notevole perché è in grado di vedere anche nella nebbia più fitta. Ecco, infatti. Sì, in questo caso l'occhio non potrebbe assolutamente aiutarci, l'unica cosa che possiamo fare è stare a distanza adeguata da chi ci precede. Ma come facciamo se non vediamo chi ci precede? Con il radar siamo in grado di sapere sempre che abbiamo qualcuno davanti a noi a una certa distanza e possiamo stare alla distanza opportuna senza rischiare di essere troppo vicini e finire in un incidente nel caso in cui, sfortuna voglia, il veicolo davanti a noi dovesse fermarsi all'improvviso. Certo. Senta, Morocutti, due domande precise per due risposte altrettanto precise, spero. Dove lo si trova e quanto costa? Sì, la risposta precisa è il radar è in vendita tramite una rete di installatori autorizzati, perché l'installazione richiede una procedura di puntamento e l'installazione realizzata a regola d'arte, elenco degli installatori che si trova poi sul sito che descrive il prodotto. Il costo del sistema è di 1.750 euro più IVA nella versione con il visualizzatore ultimo grido, se vogliamo dire così, quello più performante con i display cristalli liquidi, e 200 euro in meno nella versione con un visualizzatore leggermente meno funzionale dal punto di vista estetico. Sì, certo, quindi da 1.500 a 1.700 per intenderci. E il sito è? Il sito in cui si trovano tutte le informazioni sul radar è www.bluradar.it. Quanti numeri esatti di quanti modelli, quanti apparecchi volete vendere nel 2009, Marco? Ah beh, questa è una domanda alla quale cosa vi aspettate? Nemmeno gli economisti quest'anno saprebbero rispondere. No, però per intenderci ci dia un numero, qualche centinaia, qualche migliaia, avete ambizioni nazionali, estere? Sì, sì. Noi puntiamo, sì, sicuramente noi puntiamo le migliaia di pezzi. Il sistema è stato già adottato da diversi autotrasportatori che in crescita, ma anche da alcune organizzazioni. Ad esempio, possiamo fare dei nomi, credo, le autostrade centropadane, ad esempio, utilizzano sui mezzi di servizio questo sistema per avere un'indicazione di chi hanno davanti nel momento in cui devono fare un intervento. Ma in ogni caso sono molti gli ambiti applicativi, come dicevo, dal trasporto pesante al trasporto passeggeri. Bene. Alle autovetture qualsiasi e moltissimi altri veicoli. Molto bene, www.bluradar.it. Grazie Marco Morcuti, a presto. Grazie a voi, a risentirci. Allora, salutato Marco Morcuti, io vorrei invece dare il buon anno e il buonasera a Laura Confalonieri. Ciao Laura. Buonasera, buon anno a tutti. Collega di Quattro Ruote che stasera si occupa di sicurezza con un'accezione cinematografica. Cinema in sicurezza è un progetto organizzato in collaborazione con la Polizia Locale di Milano, di cui devi svelarci ogni cosa, Laura. Certo, dunque questo Film Festival per ragazzi, che ormai è arrivato alla seconda edizione, è in sostanza un concorso per rivolto alle scuole sia primarie sia secondarie di primo e di secondo grado, che invita i ragazzi a creare il proprio spot per una guida più responsabile. Quindi mette i ragazzi dal punto di vista sia dei registi, li trasforma in registi, attori, sceneggiatori, per pensare uno spot che parli ai ragazzi con il loro linguaggio. Diciamo che questa cosa è stata un'iniziativa che è partita l'anno scorso dalla collaborazione tra Quattro Ruote e la Polizia Locale di Milano, che da sempre è impegnata nelle scuole con i corsi di educazione stradale. Sì. Da loro è nata l'idea di stimolare i ragazzi a produrre qualcosa che parlasse appunto ai coetanei in maniera molto diretta, perché il problema è spesso che quando si fanno lezioni di educazione stradale si danno un po' delle nozioni dall'alto, no? In senso verticale, che vengono sia cattedratiche, esatto, invece in questo modo effettivamente si stimolano i ragazzi a parlare in maniera molto diretta. Poi il linguaggio del cinema può avere mille forme di espressioni anche molto dirette. Effettivamente l'anno scorso, che era la prima edizione, abbiamo avuto un riscontro così alto sia di partecipazione che anche di qualità dei lavori prodotti. Ricordo l'anno scorso era solo destinato alle scuole milanesi questo progetto, che quest'anno abbiamo deciso di replicarlo ampliandolo a tutte le scuole italiane, perché appunto pensiamo che sia proprio un lavoro, un'iniziativa positiva anche proprio per i ragazzi. Utile per loro, anche perché è difficile alle volte parlare il loro linguaggio. Sai che molte campagne, per esempio contro l'alcol, contro le droghe, contro diversi problemi, hanno di per sé il limite di come ne parlo ai ragazzi senza sembrare un adulto che faccia la predica, no? Esatto, è proprio l'effetto predica che noi vogliamo eliminare, e quindi diciamo che i ragazzi hanno la libertà di esprimersi assolutamente come vogliono, non ci sono limiti. I video devono pervenire alla redazione entro il 15 aprile del 2009. Sì. Poi ci sarà una selezione e la premiazione verrà fatta a maggio. Ci sono tre temi attorno ai quali possono lavorare, che sono il rispetto dei limiti di velocità, le strisce pedonali e i limiti sull'alcol e a guida. Ecco, attorno a questi tre spunti possono creare la loro storia di tre minuti, che possono girare con videocamere, con telecamere anche professionali, oppure addirittura con il videofonino, perché oggi girare un video per la generazione di YouTube è veramente un gioco da ragazzi. E quindi bene, una bella iniziativa, Cinema in sicurezza. Magari ne parliamo ancora entro aprile, quando bisogna consegnare i lavori. Laura, grazie davvero, a prestissimo e buon lavoro. Grazie a voi, alla prossima. E adesso ci occupiamo di Caro Carburante. Buonasera a Roberto Barone. Ciao Roberto. Ciao. Ciao, buonasera a tutti voi. Bentornato al collega anch'egli del mensile, il nostro partner, che si è occupato di fare un'inchiesta molto particolare. Sceso addirittura abbondantemente sotto i $50 al barile il prezzo del petrolio, non altrettanto ha fatto benzina e gasolio, però sono scese. Quindi buona notizia, e in un certo senso forse ce l'aspettavamo da un po'. Roberto, esattamente avete preso spunto dalla Francia? Esattamente, cioè abbiamo preso spunto dalla notizia di un settimanale francese che annunciava come appunto oltralpe il prezzo del gasolio fosse sceso sotto l'euro al litro, e abbiamo cercato di fare un'indagine anche sul territorio italiano. Sì. Abbiamo scoperto che a distanza di 15 giorni, quindi con un po' di ritardo, ma anche in Italia il prezzo è sceso sensibilmente. Questo soprattutto, purtroppo bisogna dirlo, per quanto riguarda i distributori low cost, quelli... I marchi ufficiali ancora attendono un po' ad adeguarsi, ma credo che a breve arriveranno anche loro a scendere. Dovranno farlo decisamente e adeguarsi. Low cost, ve lo ricordiamo, ce ne siamo occupati con Roberto stesso più di una volta, sono quei distributori dal marchio non proprio conosciuto, ma che localmente sono presi d'assalto da automobilisti che riescono a risparmiare diversi euro per ogni pieno. Un minuto e ci salutiamo per capire dove trovare allora il gasolio e la benzina a così bassi prezzi. Esattamente, sono cosiddetti marchi indipendenti, come giustamente dicevi tu. Il più basso in assoluto risultato il distributore di Mondovicino Power Station, situato nell'Outlet Village di Mondovì, in provincia di Cuneo, sì, che per festeggiare il primo anno di attività propone il gasolio a 0,989 euro al litro. Seguono poi il centro Calor di Alessandria Sud, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, in provincia di Cuneo, e Osasio, provincia di Torino, e lo stesso prezzo la Conad di Baggiovara, in provincia di Modena. E ancora tutti i 21 distributori Auchan presenti sul territorio nazionale. Molto bene, questo per dirvi anche e raccontarvi una sorta di geografia di questi low cost indipendenti. Roberto Barone, grazie per questa notazione, a prestissimo e buon lavoro. Grazie a voi, a presto e ci risentiamo. Con la sua voce termina anche la nostra trasmissione, che torna però puntuale la settimana prossima. Vi ricordo radio24.it e la nostra email 4ruote@radio24.it. Grazie davvero per il vostro ascolto. Da Filippo in regia, da Roberto Rasì al microfono, una sincera buona guida.